di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ben ritrovati ancora, buongiorno. C'è questo scontro Italia-Canton Ticino sui frontalieri, con tanto di convocazione dell'ambasciatore svizzero che ci terrà impegnati tra pochissimo. Infatti andremo a vedere se in questo caso a essere discriminati sono gli immigrati italiani, proprio loro, in questo caso lavoratori italiani 60.000 che ogni giorno varcano il confine per recepire uno stipendio che di fatto avrebbe instaurato una concorrenza con i lavoratori svizzeri che tanto non piacciono non solo ai residenti svizzeri ma soprattutto ad alcuni esponenti di partito che considerano la situazione un'ottima occasione per portarsi a casa qualche manciata in più di voti. Ne parleremo comunque, perché per illustrare questa situazione avremo con noi anche il Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino tra i nostri ospiti, quindi cercheremo di capire esattamente se si è scatenata una ostilità palese contro gli italiani o se invece tutta questa richiesta anche del certificato penale addirittura per chi lavora nella Repubblica Elvetica è destinata a rientrare con un nulla di fatto e tanto rumore per nulla. Lo vedremo. Noi andiamo tra pochissimo ad ascoltare, anche a sentire in un altro paese quello che dell'Italia si dice, si conosce e si sa grazie alla nostra corrispondente. Vi anticipo però anche il tema del nostro dibattito dalle 9 alle 10. La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, secondo un'indagine Istat che è stata finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità, quindi un'indagine che copre gli ultimi 5 anni, e denuncia che quasi una donna su tre in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale, e le donne avrebbero preso anche maggiore coscienza del fenomeno, ma sono tantissime quelle che preferiscono tacere di fronte alla brutalità di un abuso. E queste sono cose che abbiamo già sentito in passato. In questi giorni fa pensare uno sfogo a margine di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, in cui gli imputati, presunti imputati, a questo punto vanno chiamati così, per un reato di stupro, sono sei questi giovani uomini, sono stati tutti assolti. Per i giudici della Corte d'Appello, e noi naturalmente rispettiamo la sentenza, la ragazza denunciò il rapporto sessuale per rimuovere un suo discutibile momento di debolezza e fragilità. Oggi questa ragazza di anni ne ha 29 e ci racconta, a 7 anni di distanza, in una lettera resa pubblica dai giornali, ho ancora attacchi di panico, flashback, incubi, lotto giornalmente contro la depressione e la disistima di me. Mi è stato detto però che io nella vita ho tenuto una condotta sessuale sregolata, una vita non lineare, una sessualità confusa, e questo ha ferito questa parte lesa in questo processo, al punto che in una lettera lunghissima, poi ve ne daremo contezza, termina, e questo è il punto su cui ci fermeremo a riflettere: se potessi tornare indietro dopo queste giornate, anni di interrogatori in cui la mia vita è stata vivisezionata, in cui è stato messo e reso pubblico anche il colore delle mie mutande, se potessi tornare indietro sapendone le conseguenze, non so se sarei andata al centro antiviolenza da cui è poi partita la segnalazione alla polizia, che mi ha chiamato per deporre una testimonianza 3 giorni dopo. E quindi, per ripetere al mondo che la violenza non è mai giustificabile, io scrivo questa lettera perché, per ripetere che quale sia il tuo lavoro, che indumenti porti, quale sia il tuo orientamento sessuale, non si può giustificare la violenza. E discuteremo proprio di questo nel corso della trasmissione, prendendo spunto da quanto accaduto a Firenze per capire cosa resta da fare in Italia. E nostra ospite sarà anche una psicoterapeuta, Teresa Bruno, che ci racconterà quali sono le eredità di una violenza fisica su una donna, che tipo di conseguenze poi negli anni si porta, e questo è un aspetto poco esplorato. Ora però andiamo a conoscere la nostra corrispondente. Visti da fuori. Ulle Tode. Tere, no, buongiorno. Come si dice buongiorno in Estonia, innanzitutto? Tere, quindi ci siamo fatti trovare abbastanza preparati. Ulle è la corrispondente estone per Estonian Public Broadcasting, perché in questi giorni si discute soprattutto dei corrispondenti dagli Stati Uniti, cioè dall'Italia, per delle testate statunitense. A noi piace anche scoprire alcuni angoli del mondo un pochino meno raccontati, e soprattutto cosa voi pensate o raccontate dell'Italia. Tu sei corrispondente per la radio o per la televisione? Soprattutto lavoro con radio, però per gli anni ho lavorato anche con televisione, quindi ultimamente comunque copro per la radio pubblico le tematiche italiane. Cosa ti chiedono i tuoi capi servizio, capi redattori? Quali storie, quali situazioni vogliono tu documenti? Ma sicuramente ci sono sempre tematiche interessanti che si riguardano la politica, perché Italia comunque è un paese importante sia in Unione dell'Europa, comunque anche certamente questi giorni tutto quello che si riguarda immigrazione, situazione sul Mediterraneo, quindi spesso sono tematiche politiche, ma certamente anche la cultura. Cultura e immigrazione. Dal punto di vista della sensibilità dell'opinione pubblica estone, secondo te, e che idea ci si è fatti di quanto sta accadendo nel Mediterraneo e soprattutto della mancata solidarietà dell'Europa alle problematiche italiane, come tu hai raccontato in alcuni pezzi? Sì, questa forse è una questione molto importante che anche l'Estonia dovrebbe discutere e capire forse meglio, che spesso sembra che problemi del Mediterraneo sono molto lontani. Sono lontani dall'Estonia, sì. Certamente, forse noi abbiamo altre paure in qualche modo, quella che si riguarda la nostra grande vicina dall'est, certamente la Russia, quindi forse c'è bisogno di più capirci e parlare insieme. E che tipo di conoscenza hanno gli italiani dell'Estonia? Sicuramente Estonia è un piccolissimo paese di 1.300.000 di abitanti, quindi in Italia è molto carino ogni tanto di essere la prima estone che persone incontrano. Quindi ti capita, hai questa esperienza, tu sei la prima estone, quanti sarete in Italia, la comunità estone, forse qualche centinaio, quanti siete? Non ci sono numeri ufficiali, immagino. I numeri ufficiali non ce l'abbiamo, perché Estonia oggi è anche in Unione dell'Europa, quindi persone si muovono molto facilmente, ma pensiamo che siamo più o meno 200 forse che abitano proprio qui in Italia. E tu hai un po' questo ruolo anche da ambasciatrice, andando in giro, essendo tu la prima estone, devi un po' far conoscere questo paese microscopico, se vogliamo, ma che ha una storia molto ricca. Tra l'altro è anche caratterizzato dalla presenza di tante minoranze all'interno dei propri confini. Sicuramente la minoranza più importante sono i russi, però infatti ci sono i finlandesi, tanti piccoli popoli ugrofinici che sono hanno abitato intorno al Mar Baltico e oggi certamente sono assimilati molto con altre culture finlandese o estone, come Isuri, come Vatia, quindi. Però poi certamente persone dall'Ucraina, dal paesi ex Unione Sovietica, quindi sicuramente una terza della popolazione più o meno sono immigrati. Un terzo della popolazione sono immigrati. Tu ricordi anche i giorni in cui avete adottato l'euro? Sì, è stato un grandissimo giorno e Estonia sicuramente voluto molto entrare in zona euro, perché certamente per un piccolo paese con questa storia che dall'Unione Sovietica per nostra economia è stata una decisione molto importante per chi entrare in zona euro. E questo è avvenuto nel 2011, ma prima che moneta avevate? Avevamo la krona estone, esti kron. E che cambio c'è tra la krona estone e l'euro? Un euro valeva più o meno 15 coroni. 15 corone, è stato un cambio per la popolazione, immagino, decisamente radicale nelle abitudini di tutti i giorni, il modo di fare la spesa. Ci sono state anche in Estonia proteste o segnalazioni di rialzo dei prezzi? Purtroppo sì, perché come abbiamo parlato che il cambio è stato un euro verso 15 kron, quindi alla fine certamente tanti prezzi purtroppo sono anche saliti, anche se sono stati controlli, però piano piano con gli anni certamente si sente che i prezzi sono cresciuti. L'Estonia, lo ricordiamo, ha acquisito l'indipendenza. Ricordi, quando tu sei nata, per esempio, sicuramente non sei nata in Estonia, cioè sarai nata nella Repubblica Sovietica, o sbaglio? Sì, come Unione Sovietica era un'unione di 15 paesi, quindi io sono nata nella Repubblica Socialista Estone. Sì, fai bene a rimarcarlo, però ricordi anche gli anni della caduta del muro, ricordi quei grandi passaggi. Ma quando io dell'89, sono del 90. Sì, diciamo io più o meno avevo 20 anni quell'epoca. È stato un momento molto particolare perché prima io non immaginavo neanche che questa grande unione potrebbe cadere in pezzi. Era la nostra realtà e certamente giovani anche sono molto capaci di adattarsi con ogni realtà. Però quando tutto è successo, improvvisamente è cambiato tutto, è cambiato come vedere il mondo, si poteva uscire, si poteva anche comunicare con altri popoli, altre culture. Quindi questo è stato un momento in qualche modo magico, perché è cambiato la storia, è cambiato tutto. E tu puoi in qualche modo racchiudere anche questa storia e questo passaggio che hai vissuto sulla tua pelle, perché a 20 anni sei più che consapevole di quanto accade intorno a te. Ora, tornando ai rapporti con l'Italia, quello che secondo te gli estoni fanno più fatica a capire del nostro paese, cos'è? Forse una cosa che io ho imparato qui in Italia, che è stato molto interessante, si riguarda il comunicazione interpersonale, perché per noi in nord silenzio è oro e parlare è argento, si dice così, ma in Italia tutto viceversa. Ho imparato qui che italiano mi parlano molto, però parlando ti mettono anche alla prova. Vogliono capire se approfondire il rapporto con te o no, e questa certamente per i nordici è una grande differenza, e forse spesso persone dal nord non capiscono che questo modo di parlare, studiare, capire è molto importante in cultura italiana. Tu sostieni che nei nostri rapporti interpersonali chiacchieriamo molto di più di quello che si fa a Tallinn, per esempio? Cioè, voi siete più bravi ad ascoltare? Sì, però può succedere anche che se una ascolta sempre, alla fine non dice nulla. E infatti all'inizio, quando sono arrivato nel 2000 qui in Italia, le serate con amici, poi come anche certamente italiano era la lingua straniera per me, poi mi dicono: ma tu non hai detto nulla. Però io ho aspettato che c'è un pauso di silenzio quando posso parlare, però certamente non arriva mai parla. Quando a un tavolo ci sono delle persone italiane, quindi tu aspettavi cortesemente, come spesso, questo ci è stato raccontato anche da corrispondenti asiatici, che qualcuno ti chiedesse l'opinione o ti dicesse: adesso parla tu. E hai passato la serata, esatto, praticamente in silenzio. E dal punto di vista del rapporto uomo-donna, ci segnalavi anche uno strano rapporto con la figura della suocera che hai riscontrato in Italia? Sicuramente questa rapporto con suocera, sia per gli uomini sia per le donne, certamente è molto diverso, perché la suocera sicuramente è una figura che in qualche modo anche nei rapporti familiari domina, e questa è una bella differenza anche. Però diciamo che io ho avuto rapporti bellissimi con mia suocera, imparato anche tante cose, quella che ricordo. Sì, sì, specifichiamo che non è nulla di personale, però hai osservato nelle dinamiche familiari questa continua relazione tra la famiglia della coppia e la famiglia d'origine. Questo è diverso da ciò che osservavi in Estonia. E per questo sono preziose le vostre testimonianze, perché noi immaginiamo che i corrispondenti stranieri passino la giornata a seguire la politica o l'evolversi dei battibecchi parlamentari italiani, intanto invece ci osservano e raccontano anche questi aspetti più intimi. Grazie, grazie per la tua testimonianza, Ulle Tode. Grazie a voi e buona giornata. E ti salutiamo con questo omaggio, con questa musica che viene dal tuo paese, Maei Maga, Maei So. Grazie. Hai hai, e prego giusto ma da mano la sulle. Bellissima voce, decisamente interessante scoprire anche gli aspetti musicali di alcuni vivai di cantanti che forse ci ostiniamo a ignorare da questa parte, privilegiando sempre statunitensi e inglesi. E invece sentite qua, Maei Maga, Maei So, decisamente piacevole, ci ha accompagnato al primo giro di Boyd in questa trasmissione, sempre spunti di vista. Vi ricordo il numero di telefono 800 24 00 24 e il numero di SMS a cui inviare i vostri messaggi, 349 238 6666. C'è poi l'email spunti di vista @radio24.it e la pagina Facebook. Staremo insieme fino alle 10. Sono tante le tematiche che tratteremo, sono arrivati già tanti messaggi, il pubblico è molto diviso anche sul tema di oggi, molto delicato, importante, ed è importante discuterne. Lo faremo dalle 9 in seguito alle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Firenze su un caso di violenza del 2008. I giudici hanno inteso assolvere con formula piena i 6 giovani imputati, che erano stati invece condannati in primo grado. Ma al di là della sentenza, che, lo ripetiamo, non viene messa in discussione, la ragazza, secondo la Corte, questo è contenuto nel dispositivo delle motivazioni della sentenza, conduceva una vita non lineare. Questa è stata una motivazione che per alcuni sembra fondarsi sul giudizio sulla vita privata della parte lesa, della ragazza, e di questo vogliamo discutere, di questi giudizi sulle donne, giudizi su ciò che le donne fanno anche in ambito sessuale, su quanta libertà abbiano davvero conquistato ai nostri giorni. Ora linea alla regia, torniamo tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Rieccoci insieme e andiamo poco distante dagli studi di Radio 24 qui a Milano. Ci spostiamo infatti alla frontiera con la Svizzera. Sembra salga la tensione proprio al confine. Innanzitutto ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti. Norman Gobbi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Norman Gobbi è presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, e con lui c'è anche Lino Terlizzi, vice direttore del Corriere del Ticino e corrispondente per il Sole 24 Ore dalla Svizzera. Buongiorno Lino. Buongiorno a tutti. Senti, ci puoi spiegare alcuni il contesto in cui matura questa tensione denunciata in questi giorni dai giornali italiani, soprattutto per capire, prima di dargli la parola, lui è qui qui con noi, come ci possa essere una differenza tra ciò che il governo federale decide, accetta o la strada che intraprenda e quello che viene fatto a livello periferico, perché non avendo noi una Repubblica federale a volte facciamo fatica a capire esattamente i pesi e le misure. Dunque, cosa è successo nel Canton Ticino? Ma qui stiamo parlando, diciamo, di divergenze per quel che riguarda come trattare la questione dei frontalieri, dei lavoratori italiani che ogni giorno varcano la frontiera per lavorare in Canton Ticino, in questo caso, ma però ci sono anche altri cantoni naturalmente che hanno i frontalieri, ma nel Canton Ticino sono particolarmente presenti i frontalieri italiani, e quindi di come trattare questa questione da parte del cantone Ticino stesso e però anche da parte di Berna, cioè del governo centrale svizzero, perché poi alcuni rapporti fondamentali tra Italia e Svizzera naturalmente li tiene Berna. Ora, le misure prese dal Canton Ticino in quest'ultima fase sono soprattutto due: una di ordine fiscale, cioè in pratica in soldoni un innalzamento della pressione fiscale per quel che riguarda i frontalieri italiani, e l'altro invece è quello che è la misura relativa al casellario, alla richiesta di casellario giudiziale, che appunto è l'altra voce controversa. In sostanza, diciamo che c'è una divergenza di vedute su questo, non soltanto tra l'Italia e il Canton Ticino, ma c'è anche in parte tra Berna e Bellinzona, che è la capitale del Canton Ticino. Ma questo, diciamo, è una cosa che succede in Svizzera, perché appunto il modello federalista svizzero prevede una marcata autonomia per quel che riguarda i governi dei singoli cantoni, e quindi può accadere, come in questo caso, che ci siano delle visioni diverse. E questo tanto per dare il contesto. Norman Gobbi, lei che poi rappresenta, diciamo così, il governo del Canton Ticino, cosa ha chiesto esattamente? Perché poi le dirò cosa è scritto sui giornali italiani e lo confronteremo con quello che scrivono i giornali elvetici invece. Lei cosa vuole? E vuole mettere fine alla libera circolazione delle persone che vengono a lavorare in Svizzera dall'Italia? Beh, questo è un dossier che in Canton Ticino più di altri cantoni è molto vivo con la libera circolazione, perché proprio a seguito comunque anche di una crisi economica che purtroppo perdura in Lombardia, ma non solo, quindi in tutta Italia, ha spinto molte aziende a portare la loro sede in Ticino, ma anche molti lavoratori con buone qualifiche a scegliere Canton Ticino come luogo di lavoro, perché qui ci sono ancora ottime condizioni di lavoro e soprattutto anche salariali. Le due misure che indicava prima Lino Terlizzi sono soprattutto la prima, quella fiscale, volta a, tra virgolette, evitare che vi sia un effetto dumping sui nostri salari, proprio perché comunque l'aspettativa di salario di un lavoratore italiano che viene in Ticino a lavorare evidentemente sono inferiori, proprio perché comunque in Italia anche il costo della vita è inferiore rispetto a quello che si vive in Canton Ticino. Cioè lei dice quindi questi 60.000 frontaliere che sono disposti a lavorare a meno danneggiano poi? E questo è evidente, proprio perché comunque in più casi abbiamo dovuto come governo cantonale introdurre dei contratti normali di lavoro, quindi sostanzialmente dei contratti obbligatori con dei minimi salariali, cosa che abitualmente in Svizzera difficilmente si fa. I cantoni che l'hanno adottato di più sono proprio i cantoni di frontiera, proprio perché confrontati con questa pressione salariale. C'è soprattutto Ginevra, ma c'è anche il Canton Neuchâtel, che si sono volti su questo aspetto, così come il Canton Giura. Il Canton Ticino in soli 4 anni ha introdotto una dozzina di contratti normali di lavoro, fissando dei salari minimi, per esempio, anche per i collaboratori degli studi d'avvocato, degli studi di fiduciario finanziario, ma anche per esempio per gli informatici, proprio perché ecco, comunque la pressione salariale. Esatto, non si può intervenire fissando dei salari minimi, così che le aziende che assumano lavoratori, scegliendoli tra i più meritevoli o adeguati, se non vogliamo scomodare l'aggettivo meritevoli, poi attingano indistintamente tra italiani e svizzeri o chi quelle competenze ce l'ha. Invece di bloccare gli italiani, non si può fissare un salario minimo per cui le aziende devono pagare un tot per una certa prestazione. Ed è quello che stiamo facendo anche in parallelo, insieme comunque anche al contingentamento, proprio perché comunque ci siamo accorti spesso e volentieri dei laureati italiani prendono dei posti di lavoro che abitualmente erano riservati a persone con una formazione professionale di secondo livello e non di terzo livello come quello accademico. E questo evidentemente crea una forte concorrenza anche sul mercato del lavoro, con l'assenza poi di sbocchi professionali per queste persone, penso in particolar modo agli impiegati di commercio attivi in vari settori, che si sentono in concorrenza non tanto con dei loro colleghi con la stessa formazione di secondo livello, ma con una formazione accademica, quindi con dei lavoratori che per meno salario portano più competenze, e questo è insano anche dal punto di vista della pace sociale interna del nostro della paese. Pace sociale. E quindi lei ha pensato di introdurre anche la richiesta del certificato penale. Non riesco a capire come le due cose siano connesse. Non sono connesse, anche perché evidentemente la richiesta del certificato penale non va a limitare la libera circolazione, ma va a limitare unicamente la libera circolazione di quelle persone che volevano scegliere il Canton Ticino come luogo di protezione e di anonimato quando hanno già commesso dei reati gravi in Italia o nel loro paese d'origine, proprio perché comunque questa misura non tocca unicamente gli italiani, ma tocca tutti i cittadini dell'Unione Europea e dell'Associazione Economica di Libero Scambio a livello svizzero. Quindi evidentemente è una misura che andava a toccare, proprio perché comunque ci siamo resi conto troppe persone hanno sottaciuto i loro precedenti penali, hanno messo anche in cattiva luce la nostra realtà e hanno soprattutto poi anche commesso gli stessi reati sul nostro territorio, dalle frodi finanziarie alle truffe, ma anche purtroppo a rapine. E quanti casi di rapina opera di stranieri o italiani, in questo caso di frontalieri, avete avuto in Canton Ticino? Beh, c'è stato un caso eclatante che è stato quello di Novazzano proprio nel mese di marzo-aprile, in cui dei cittadini, 3 o 4, che risiedevano sul nostro territorio, che durante l'autocertificazione hanno detto di non avere dei precedenti penali, poi sul nostro territorio hanno commesso una rapina coinvolgendo altre persone provenienti dall'altra parte del confine, quindi italiani che abitavano o risiedevano in Italia. Evidentemente questo crea una forte insicurezza, proprio perché comunque il Canton Ticino, tra i grandi attu che ha ancora oggigiorno, è sicuramente quello di offrire, oltre che un buon sistema amministrativo fiscale, anche sicuramente quello di offrire condizioni di sicurezza molto elevata, che poi viene molto apprezzata da chi risiede da noi. Leo Terlizzi, abbiamo sentito dunque la richiesta. Ci sarebbe un allarme sociale in Canton Ticino a seguito di questa rapina? Ma, Lino Terlizzi, scusami. Niente di male, ma diciamo è relativo, diciamo, bisogna un po' dare le proporzioni, nel senso che è chiaro che ci sono stati episodi e ci sono episodi che certamente non sono piacevoli e che non piacciono, giustamente, però diciamo in comparazione con gli altri paesi europei è chiaro che in Svizzera, in Canton Ticino, comunque la situazione rimane molto tranquilla, ecco, diciamo, se facciamo un raffronto internazionale. Sì, ma l'Italia ha convocato l'ambasciatore svizzero e ha definito discriminatorie queste richieste. Come viene vissuta questa operazione di richiesta del certificato penale generale del casellario giudiziale invece lì dall'altra parte della frontiera? Cioè la popolazione, non so, hai qualche titolo di giornale, cosa scrive? Chiedo i giornali per dare un'idea di quella che è l'opinione pubblica. Ma diciamo i titoli che abbiamo fatto qui in Canton Ticino rispetto alla convocazione dell'ambasciatore svizzero Kessler da parte del Ministero degli Esteri italiano sono l'offensiva italiana sui frontalieri, per esempio, oppure ancora questo Corriere del Ticino, la regione Ticino invece ha scritto frontalieri Roma alzai toni, il Giornale del Popolo, altro quotidiano ticinese, dice Roma alza la voce, Gobbi replica, ecco, questi sono il tipo di titoli che sono stati fatti. Ma diciamo che lì secondo me bisogna un po' forse distinguere le due voci di cui stiamo parlando per quel che riguarda i frontalieri, cioè quella fiscale e quella del casellario giudiziale. Il dibattito forte io credo che sia e debba essere in effetti soprattutto sulla prima, quella fiscale, perché lì probabilmente la prospettiva non è così chiara, perché effettivamente si tratta di una misura ad hoc per i frontalieri che ha le ragioni che ha spiegato Gobbi poc'anzi, ma che nel quadro legislativo, diciamo, elvetico probabilmente suscita contrasti anche a livello di opinione in Canton Ticino, suscita contrasti. L'altra misura, quella del casellare della richiesta, del certificato, del casellare giudiziale, eccetera, è un dibattito forte, suscita contrasti, soprattutto nei rapporti tra Svizzera e Italia e segnatamente tra Canton Ticino e Lombardia, perché poi ci sono stati degli interventi del governatore della Lombardia, Maroni. Roberto Maroni, che nonostante questa comune ideologia leghista col Gobbi, ha rimproverato ha rimproverato la Svizzera, poi addirittura ha minacciato un mese di sciopero dei lavoratori comaschi e varesotti, cioè state a casa un mese, li ha invitati, vi paga la regione e poi vediamo come se la cavano i ticinesi. Adesso naturalmente non è stata presa nessuna iniziativa in questa direzione, è un po' una buttata, ma è interessante vedere cosa succede quando gli immigrati siamo noi, è interessante anche capire come sta andando il traffico, quindi ci fermiamo per un attimo e ritorniamo con le conclusioni di questa discussione, andiamo sulle strade in Italia a vedere come procede la viabilità. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Chi di immigrazione ferisce sembra che di immigrazione poi perisca. Questo scontro Italia-Canton Ticino sui frontalieri è molto significativo di un clima che si sta creando proprio qui al confine, e ci sono 60.000 persone che ogni giorno lo varcano, questo confine, questa frontiera, per poi andare a lavorare dall'altra parte. L'avete sentito, in realtà le aspettative di salario degli italiani sono talmente contenute che minacciano il mercato interno. Sembra di far eco a quello che sentiamo, viviamo tutti i giorni in Italia, con un'immigrazione molto più consistente dal punto di vista numerico, ma molto spesso ci si trova anche di qua ad avere laureati che occupano, come ci ha segnalato Norman Gobbi per la Svizzera, delle posizioni che poi in realtà richiederebbero molto meno competenze. Noi continuiamo a parlare con i nostri ospiti, vogliamo sentire anche la vostra voce e cominciamo subito con un ascoltatore da Lecco, mi sembra di capire dalla segnalazione. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Dennis, dico bene? Sì, perfetto. Io volevo ringraziare in prima persona la Svizzera, perché sono un piccolo imprenditore, sì, della provincia di Lecco, che è stato massacrato dalla burocrazia becera di questo paese. Io mi occupo di energie rinnovabili, di cui sono state massacrate proprio per nuove scelte politiche. E in Svizzera invece ho trovato uno sbocco molto interessante e una burocrazia diciamo a livello umano normale, molto flessibile. E volevo dire che anche per dire al presidente Maroni che la scelta della documentazione di garanzia penale è una scelta che è corretta, perché a casa loro gli svizzeri fanno scelte per avere una massima qualità di vita e di sicurezza, cosa che in Lombardia non esiste. Perciò tanto di cappello. A chi lei dice difende le proprie istanze, la propria qualità di convivenza, perché non è discriminatorio verso gli italiani, dunque, come invece è stato segnalato da alcuni? Guardi, come diceva prima il giornalista, se io voglio avere un controllo sul mio territorio, devo avere anche un'ottica e una statistica di quello che succede, nel senso che se io un lavoratore che ha dei pensieri non positivi, nel senso vuole fare delle truffe o vuole rubare o che sia, io sul mio territorio non lo voglio. Al massimo. E lei ha dipendenti italiani, Dennis, lei che fa l'imprenditore in Svizzera? No, io non sono più imprenditore in Svizzera, ma sono un consulente in Svizzera. Il concetto qual è? Io seleziono le persone, ma non è una cosa discriminatoria. Quindi se chiederanno a lei il certificato penale, lei non ci vedrà nulla di offensivo, insomma, lo produrrà e basta. Ma guardi, faccio un esempio, è come il discorso dei 5 Stelle in Italia. Chi entra nel mondo della politica, nel mondo 5 Stelle, chiedono il certificato penale. Perciò chiunque vuole fare il furbo o ha brutte intenzioni non entro in politica. Per lei è un'operazione di trasparenza. Grazie. Denis, grazie. 800 24 00 24. Abbiamo sentito questa interessante testimonianza che spezza una lancia a favore della Svizzera, dove sì, ci sono norme, ma sono riconosciute e applicate a tutti e quindi non discriminatorie. Ci dice Denis, alcuni altri sono del parere opposto, lo segnala un SMS appena arrivato. Se andassero via questi 60.000 frontalieri, la Svizzera che fine farebbe? Non è giusto trattare in questo modo gli italiani. E sono italiano e vivo in Svizzera, sto leggendo al volo in questo momento, da 7 anni, e per fare il volontariato normalmente è richiesto comunque il casellario giudiziario. È vero che non era stato richiesto a queste persone che prima in Svizzera ci andavano solo per lavorare. Lino Terlizzi, interessante anche questa esperienza dell'imprenditore che ci ha chiamato. Lei è d'accordo con quanto segnalato da Norman Gobbi? Ma diciamo la situazione segnalata da Gobbi con riferimento alla sicurezza interna. Sì, sì, alla sicurezza interna intendevo, sì. C'è la necessità di chiedere questo certificato penale, carichi pendenti, perché... Ma è una misura possibile, è una misura prevista dalle leggi, in effetti. Il contrasto su questo, come si diceva poco fa, è soprattutto tra Italia e Svizzera, ma all'interno del Canton Ticino non è vissuta con contrasto, semplicemente perché è una delle misure previste. Dopo Berna il governo nazionale non è d'accordo magari col Canton Ticino in questa fase, perché questo credo rientri in un discorso di equilibri di negoziati tra Italia e Svizzera, perché bisogna ricordare che è in corso anche la seconda parte del negoziato degli accordi fiscali, quindi ogni mossa chiede implicitamente Berna, non la dice così, diciamo letteralmente, ma la sostanza credo sia questa. Il governo nazionale dice attenzione cantoni, quindi attenzione anche Canton Ticino, perché ogni mossa che fate in questa direzione deve rientrare negli equilibri del negoziato complesso che stiamo facendo, seconda parte degli accordi fiscali, e quindi non è tanto d'accordo sulle iniziative specifiche. Però nel merito della richiesta del certificato casellario giudiziale non c'è grande contrasto in sì, già, ci sono alcuni ascoltatori che ci scrivono: ma io lavoro da 6 anni in Svizzera, perché adesso mi chiedono il casellario? Io sono un po' feriti quasi da questa richiesta, che interpretano come atto di sfiducia. Ma in genere tu ci stai segnalando, immagino che sul tuo giornale abbiate sentito anche dei frontalieri o i residenti del Canton Ticino, non è vissuto come un grande affronto. Norman Gobbi, ma è già effettiva questa richiesta? Dal mese di aprile di quest'anno, e purtroppo insieme ai lavoratori entrano anche persone legate a organizzazioni criminali, cosa che evidentemente, vista anche, come ricordavo già prima, la crisi economica in Italia, trovano nel Canton Ticino comunque un terreno florido. Ma forse lei sta parlando non delle persone legate all'andrangheta. Ma lei sta parlando allora di richiesta di residenza, non di richiesta di poter lavorare, cioè sono due questioni diverse. No. Sia per coloro che vengono a lavorare, sia per coloro che vengono a richiedere, c'è la stessa richiesta proprio per una parità di trattamento, e non solo gli italiani, ma tutti i cittadini stranieri che vogliono venire in Canton Ticino. Anche perché abbiamo avuto, per esempio, un collaboratore di una ditta di personale messo a disposizione di una grande ditta del Canton Ticino. Questa persona è entrata in Canton Ticino e poi alcune settimane dopo è stata arrestata perché già pregiudicata e poi nuovamente collusa con un'organizzazione criminale. In Ticino comunque doveva... Ma entrata in Ticino non faceva il frontaliere, cioè è entrata in Ticino e ha chiesto... Quindi lavorando, e poi si è scoperto che partecipava, aveva fatto parte dell''ndrangheta, e quindi lei ha ritenuto opportuno in qualche modo tutelare quella che è la sicurezza in Svizzera. Norman Gobbi, grazie per aver accettato naturalmente di illustrarci quanto accade, e avete sentito, è una questione che si sta ancora sviluppando. Grazie grazie anche al nostro ospite Lino Terlizzi, vice direttore del Corriere del Ticino. C'è questa tensione che sale tra Italia e Svizzera, vi daremo contezza nei giorni successivi di quello che accadrà. Noi tra pochissimo cambiamo pagina perché continueremo a parlare della situazione delle donne in Italia, prendendo spunto da quanto scritto in una motivazione di una sentenza emessa dalla Procura della Corte d'Appello di Firenze. Lo faremo però dopo il notiziario. Ora linea alle news. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La vicenda Italcementi sta scatenando le dichiarazioni più strampalate e obiettivamente anche incoerenti. Il gruppo tedesco, il colosso del cemento tedesco Heidelberg Cement, ha offerto un prezzo per acquistare il controllo di Italcementi, la quota in mano alla famiglia Pesenti, dicevo, ha offerto un prezzo del 70% superiore al valore attuale delle azioni, valorizzando, come si dice in gergo, il gruppo Italcementi dai 2 miliardi e 300 milioni attuali a 3 miliardi. Compra e paga caro quindi la quota di controllo in accordo con la famiglia Pesenti. Subito si sono levate le voci di una nuova invasione straniera, niente meno che tedesco. In realtà, come ricordo oggi sul Sole 24 Ore lo stesso Giampiero Pesenti, in un gruppo industriale quello che conta non è il controllo ma i piani di sviluppo, e i vertici di Heidelberg hanno precisato come questa sia un'operazione assolutamente complementare, non vi sono aree di sovrapposizione tra i due gruppi e l'investimento punta a creare maggiore presenza e sviluppo sui mercati. Inoltre, aggiungiamo noi, non si può sempre lamentare l'assenza di capitali stranieri in questo paese e quando arrivano lamentare l'invasione dei Lanzichenecchi. Certo, il tema che il nostro paese possa avere sempre meno gruppi in mano italiana dei grandi gruppi che contano c'è e c'è tutto, ma non si risolve chiedendo un dirigismo alla francese, né si risolve appellandosi a fantomatiche cordate di imprenditori o banche italiane. Meglio sarebbe avere una cabina di regia e capire se esistano soci che vogliono mettere i soldi in eventuali operazioni industriali, a patto che le operazioni siano industriali e non solo finanziarie o addirittura solo di passaporto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 9:09, ancora buongiorno. Chi ha acceso la radio da poco si merita un saluto. Comunque, Irene Zerbini, questi spunti di vista. Allora, gli sms 349-238-6666, questo è il numero. Potete scrivere email a spunti di vista @radio24.it. Oggi discutiamo di... quando si parla, si dice la parola donne, si scatenano gli insulti. Semplicemente la parola donne fa scatenare gli insulti via sms, come se fosse un tema obsoleto, come se fosse un tema che non merita attenzione, come se ormai la parità fosse una cosa raggiunta e assodata. Di conseguenza giornali, media, mezzi di comunicazione che accendono i riflettori ancora su questi problemi fanno del vittimismo. Questo per darvi un'idea del tono di alcuni dei messaggi che sono pervenuti fino a questo punto. Noi abbiamo preso lo spunto da una vicenda che si è svolta a Firenze e naturalmente non possiamo instaurare in radio, non abbiamo né le pretese né la capacità né le possibilità, un terzo grado di giudizio. In questo caso c'è stato un primo grado e c'è stato un appello. Cos'era successo? Una ragazza ha accusato sei giovani uomini con cui si era intrattenuta quella sera di averla violentata, sono stati condannati tutti e sei in primo grado, sono stati assolti in appello. Non è che avessimo bisogno della sentenza per segnalare la problematica della violenza sulle donne, i cui numeri ogni giorno rimbalzano da un titolo all'altro. Quello che ha colpito di questa sentenza è stato il riferimento alla vita non lineare della parte lesa. Nelle motivazioni della sentenza, proprio così, si fa un riferimento all'attitudine della ragazza, alla voglia della ragazza di vivere in un certo modo, e dunque avrebbe tenuto una condotta tale che anche quella sera, anche se non sobria, era tuttavia presente a se stessa. Questo io sto leggendo degli stralci della sentenza. È dunque una condotta che avrebbe potuto portare i ragazzi, un virgolettato, a malinterpretare la sua disponibilità, perché fino all'uscita Giulia non aveva palesato particolare fastidio per le avance ricevute, scrive per esempio Vanity Fair in un editoriale di Daria Bignardi, strusciamenti e palpeggiamenti, e si era fatta sorreggere fino all'auto e come inerme, come in trance, come in balia della corrente era rimasta mentre gli altri effettuavano manovre invasive su di lei e si erano mostrati quasi stupiti quando lei aveva detto basta. Allora non può che dedursi che tutti avevano malinterpretato la sua disponibilità. La domanda è questa: una ragazza dalla vita non lineare significa che sta dicendo sempre sì? E cosa significa vita non lineare? Ha colpito molto poi lo sfogo di sofferenza dell'interessata, che ha preso carta e penna e si è sfogata in questi giorni con una lettera, non potendo fare diversamente, raccontando la sofferenza che l'ha accompagnata in questi anni. Noi avevamo invitato e ci aveva dato la sua disponibilità anche l'avvocato, il legale di uno degli imputati a questo processo, ci abbiamo parlato fino a ieri, poi leggeremo alcune delle sue osservazioni per dovere di correttezza, ma in questo momento non riusciamo più a reperirlo. Non c'è in linea, dalla regia continuano a cercarlo e non riusciamo a parlare con Salvatore Sant'Agata in diretta. Vi daremo naturalmente dei riferimenti rispetto a quanto scritto anche dai giovani imputati rappresentati da diversi legali, e questo è uno che ribadisce: visto che l'innocenza degli imputati è stata dimostrata, noi non vogliamo che si continui con questi numerosi articoli di stampa e provocazioni di tanti che, senza conoscere neppure una pagina delle migliaia che compongono l'istruttoria di questo processo, si sono permessi di esprimere giudizi gravemente lesivi della dignità e della reputazione dei giudici della Corte d'Appello di Firenze, nonché delle sei vittime, sono chiamate così, di questo processo. E rivendichiamo la verità storica e processuale degli accadimenti e preannunciamo che agiremo nei confronti di chiunque tenti di distorcere il contenuto. Noi la sentenza l'abbiamo davanti, dunque non rientriamo nella casistica di coloro che non l'hanno letta. Dacia Maraini, buongiorno. Pronto? Sì, la sento. Buongiorno, Dacia Maraini, scrittrice che tante volte si è spesa sulla situazione culturale soprattutto delle donne in Italia. Lei ha detto che addirittura che lo stupro non ha niente a che vedere col desiderio sessuale, citando anche una frase di Angelina Jolie che chiedeva maggiore responsabilizzazione da parte dei governi di tutti i paesi che si dichiarano emancipati e contrari allo stupro. Non ha niente a che vedere col desiderio sessuale. Cosa significa, Dacia Maraini, questo? Beh, guardi, lo stupro in natura non esiste, infatti gli animali non stuprano. È una creazione umana, prettamente umana, che è stata usata sempre nelle guerre per umiliare il nemico, quindi è un atto di umiliazione dell'altro, di sottomissione dell'altro, di far sottomettere la persona che ha vinto, che è considerata inferiore, che è considerata spregevole, e c'è un atto proprio di disprezzo nell'atto dello stupro. Quindi che c'entra col desiderio? Desiderio, per fortuna, ha altre strade che possono essere bellissime, possono essere anche crudeli, ma non certamente lo stupro. Poi, soprattutto quando si parla di stupro di gruppo, che è una cosa gravissima, perché sono varie persone contro una. Qualsiasi cosa dicano, sono sempre diverse persone contro una. Poi vorrei dire un'altra cosa, che non si pensa, si parte dal presupposto che lo stupro possa in qualche modo essere consenziente. Ecco, lì c'è un errore gravissimo. È come se io dicessi che in una rapina ci può essere la persona che è consenziente alla rapina. Ma non è possibile, non c'è. Se una persona va a denunciare una rapina e si chiede cosa è successo, ma si parte dal presupposto che ha sofferto, che ha avuto una perdita grave e che è stato maltrattato, ha subito violenza e aggressione, no? Invece se una donna va a denunciare uno stupro, la prima cosa si chiede, ma è stata consenziente? Ma questa è una partenza sbagliata, perché non può esserci in nessun caso, mai, una disponibilità allo stupro. Questa è la cosa che... Però quello che denunciano alcuni è, non è certo la disponibilità allo stupro, ma la possibilità che ci sia una denuncia non fondata, cioè quando lo stupro non è avvenuto. Dacia Marini, la blocco un attimo perché siamo riusciti a recuperare l'avvocato Salvatore Sant'Agata, di cui lamentavamo l'assenza in apertura di trasmissione, così che possa anche egli esternare quelle che sono le motivazioni che l'hanno portato a arrabbiarsi con i giornali che dedicherebbero troppa attenzione a questa vicenda. Per noi è uno spunto, vogliamo in realtà capire se la cultura, se la pubblicità, se il modo di proporre il corpo delle donne in Italia favorisce una certa mentalità. Ma partiamo da questa sentenza, perché lo sfogo della ragazza ha senza dubbio esternato una sofferenza immensa da parte di alcune donne e delle donne che percepiscono di aver subito violenza. Ora, al di là della verità processuale che noi, come abbiamo detto, non mettiamo certo in discussione in questo caso specifico. Avvocato è con noi dunque, Salvatore sì. Sant'Agata. Buongiorno. Lei rappresenta uno degli imputati, non facciamo né nome né iniziale, non è lo scopo di questa trasmissione, non è una ricostruzione cronachistica. Ci ha colpito il fatto che lei ha detto c'è stato troppa attenzione su questa vicenda, cioè secondo lei questa vicenda non dovrebbe suscitare allarme sociale? No, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie perché mi date la possibilità di rispondere a tutte quelle persone che purtroppo magari la conoscono la sentenza ma non la comprendono appieno e soprattutto non conoscono gli atti del processo che non possono essere riversati per intero in una sentenza. E nonostante questo si sono scagliati contro i giudici della Corte d'Appello di Firenze e contro i ragazzi con dei giudizi di condanna morale a dir poco feroci, se andiamo a leggere i post degli ultimi 10 giorni c'è una ferocia inaudita contro questi ragazzi, e questo proprio sulla base della strumentalizzazione di quello stralcio, di quel passaggio della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze di cui lei ha dato lettura. Però bisogna anche comprendere che quel passaggio della sentenza che è stato richiamato e che sul quale si è puntata l'attenzione delle varie associazioni in realtà è un passaggio che arriva a pagina 19 della sentenza dopo che la Corte d'Appello ha ampiamente motivato e argomentato il perché e il per come non vi sia la prova che questi ragazzi abbiano commesso i fatti che gli venivano contestati. Quindi queste, avvocato, lei al di là... Mi faccia concludere, sì. Chiedo scusa. Queste poche righe non attengono alla motivazione della soluzione, ma a un tentativo da parte della Corte d'Appello di Firenze di individuare il movente, la giustificazione di quelle tante troppe bugie riferite alla ragazza. Allora, secondo me sarebbe il caso di capire cosa volesse intendere la Corte con quella vita non lineare. E in realtà nelle 3 righe successive della motivazione ci dice cosa significa vita non lineare. Significa che la ragazza aveva un atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso. Cosa significa questo? Se uno conosce gli atti di questo processo, sa benissimo a cosa si riferisce la Corte d'Appello. Scusi, noi quello che si fa fatica a capire come opinione pubblica, al di là del caso specifico, perché io ho rispettato. No, mi scusi, sì. Avvocato, mi scusi, la facciamo parlare, sì, ma prego. Cerchi di capire anche perché di colpo l'Italia si indigna, ci sono richieste addirittura, sì, di un'ispezione, io... eccetera, no? Perché sì, viene giudicato. Sì, sì, ma tra poco, mi faccia, sì, leggere un passaggio alla sentenza, semplicemente i fatti. Io non intendo adesso né spezzare una lancia a favore contro i giudici di Firenze, semplicemente ci si chiede sulle motivazioni della sentenza. In effetti, perché usare queste parole, al di là che poi la soluzione ci fosse o meno? In effetti, il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso, che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute. Un istante, è necessario purtroppo questo dettaglio, come quella di partecipare dopo il fatto a un workshop estivo nella zona, vabbè, qui avviene, denominato Sex in Transition, prima del fatto di interpretare uno dei film splatter di un regista amatoriale intriso di scene di sesso e violenza che aveva mostrato di reggere senza problemi. Sono queste frasi che ci chiediamo, erano necessarie per motivare, cioè si poteva arrivare alla stessa sentenza anche di assoluzione senza queste parole? Che fanno più male? Sì, lei dice sì. Questo sì, però mi faccia dire perché sì. Allora, questo passaggio della sentenza, come le ho detto, è assolutamente irrilevante ai fini della conclusione e dell'affermazione di assoluzione e di non responsabilità dei ragazzi. Il problema è che, ripeto, la Corte d'Appello si pone anche il problema di capire perché, una volta che abbiamo capito che questa ragazza ha mentito e ha mentito su tutto quello che ha detto, perché lo ha fatto? Questa è la sua posizione, come abbiamo detto. Scusi, come abbiamo detto che noi non riapriamo un terzo grado di giudizio qui, e abbiamo rispettato il suo assistito e gli altri 5 coimputati, chiediamo lo stesso rispetto anche nei confronti di una donna che non credo abbia avuto un percorso molto piacevole nel denunciare, nel farsi vivere. Quindi le posso dire perché la vita non è lineare, perché la Corte d'Appello. Perché la vita non è lineare di questa ragazza, ma soprattutto lei mi deve dire perché è rilevante che non sia lineare. Sì. Io spiego subito. Perché quando una persona riferisce di aver avuto, e non mi riferisco alla sera incriminata, ma alla propria esistenza degli ultimi 3 anni rispetto a quel momento, di aver avuto diversi rapporti sessuali, e qui non entra in merito nessun tipo di giudizio di disvalore rispetto a questo, ma rispetto a tutti questi rapporti sessuali, dopo averli raccontati, dice che in realtà però non li voleva, quindi ha il rapporto e successivamente non lo voleva e dice di averlo avuto perché non voleva, testuale, dispiacere l'altra parte, beh, al di là dell'avere un rapporto assolutamente ambivalente nei confronti del sesso, perché non si può volere e poi a cose fatte dire ah, ma in realtà io non lo volevo. E questo diventa importante perché è quello che è successo anche in questo episodio. Ho capito, grazie mille avvocato, penso la precisazione sia stata più che dovuta, nel senso che ci siamo soffermati su quello che la sentenza ha deciso, ma soprattutto ci siamo soffermati sulle parole, avete sentito, abbiamo proprio letto dei passaggi letterali tratti dalla sentenza che qui di fronte a me a pagina 19, questo riferimento all'avvocato, e ci si è soffermato, a detta anche dello stesso legale, avvocato Salvatore Sant'Agata, oggi nostro ospite, sull'analisi dei 3 anni precedenti la sera incriminata al centro del processo. Ed è qui che ci si chiede, era proprio necessario? Che tipo di rapporto ha con la responsabilità penale o meno degli imputati e di quella che a questo punto diventerebbe una calunniatrice? Come si è condotta la propria vita sessuale nei 3 anni precedenti? Questo ha suscitato domande più che legittime, e ora con la sentenza chiudiamo, cioè con lo caso specifico chiudiamo, perché ancora una volta ci dobbiamo andare a immergere in quella che è una cultura, in quella che è una mentalità e che è più importante e più decisiva spesso di un sistema codificato di regole. Dacia Maraini, anche chi ha una vita non lineare può essere vittima di violenza, secondo lei? Guardi, se uno va a leggersi un po' di storie di stupro, di denunce, di processi, vede che è sempre la stessa cosa. Cioè tutti gli avvocati cercano di dimostrare che la vittima prima di tutto era consenziente, secondo che era una puttana, insomma questo in parole povere. Ma questo, guardi, io mi sono occupata di Isolina, una ragazzina di 19 anni che è stata uccisa perché era incinta, però anche lì hanno dovuto dimostrare che lei era consenziente prima di tutto e secondariamente che lei era una poco di buono. In che anni questo però? Questo siamo al 1901, pensi un po'. E dal 1901 a oggi credo che passi in avanti. Non è cambiato granché la sua visione? No, vabbè, no, molte cose sono cambiate, certamente, però che ancora ci sia questo elemento, questionare la condotta, giustificare la condotta di più persone, che poi lo stupro di gruppo è sempre odioso perché c'è sempre questa disparità, no? Perché io capisco già lo stupro di una persona con un'altra persona, dice no, ma era consenziente, poi la cosa è arrivata allo stupro. Ma un gruppo di persone contro una persona è sempre una cosa terribile, no? E viene giustificato sempre. Io mi sono letta centinaia di processi proprio perché ho scritto dei libri in questo proposito, e purtroppo è sempre tutte le difese sono basate su questi due punti. Una persona che assume comportamenti a rischio non merita tutele giuridiche speciali. Andava in giro. Questo è scritto su un sito A Voice for Men. Una persona che assume comportamenti a rischio non merita tutele giuridiche e speciali. E sono questa la parte di motivazione così suscita molte domande. Io voglio segnalare che sono tantissimi gli uomini che invece hanno una sensibilità particolare alla sofferenza e alla richiesta delle donne di fermarsi anche dopo un rapporto avviato. Addirittura alcuni ci segnalano via SMS, perché va detto, prima che appaia una guerra tra sessi, che coloro che vanno a scavare nella vita, nella condotta sessuale, in questo caso della ragazza al centro di questo processo, non sono sempre soltanto uomini. Per esempio il collegio giudicante, in questo caso ce lo chiedono alcuni ascoltatori, era composto da due donne e un uomo. Non è una linea di confine tra maschio e femmina, per cui da una parte si vede il mondo sempre in un certo modo e dall'altra lo si subisce sempre in un modo omogeneo. È importante però discutere di questo tipo di problematica. Ancora oggi saremmo ben felici di parlare d'altro, dal 1901 in poi, perché si ha quasi la sensazione che non venga percepito proprio l'elemento della sofferenza di una donna che subisce una violenza sessuale, quasi fosse un reato minore. E saluto e ringrazio per la sua partecipazione la dottoressa Teresa Bruno, che è una psicoterapeuta. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Lei, dottoressa, con che tipo di donne lavora? Pronto? Lavoro con donne che hanno subito violenza sessuale da adulte o nell'infanzia, o maltrattamenti, e donne che sono in situazioni di maltrattamento, di violenza domestica, anche con donne vittime di stalking. E sono altri aspetti che poi naturalmente andremo anche a toccare, ma soffermiamoci un attimo su come viene percepita la violenza dopo uno stupro, una violenza sessuale. Innanzitutto, le sue pazienti, oltre a rivolgersi a lei, denunciano sempre? No, la denuncia spesso non viene fatta perché c'è una grande sofferenza, una grande confusione e soprattutto c'è molta paura, c'è paura di essere sottoposte di nuovo a minacce, per esempio, da parte di chi ha messo in atto il reato. C'è una grossa paura rispetto alla trafila giudiziaria e in quelle situazioni le donne tendono, ma chiunque, insomma, chiunque subisce un trauma di quel tipo, fosse anche un uomo, tendono a evitare tutto ciò che li rimette in contatto con quella sensazione, con quelle sensazioni. La denuncia è un atto importante, ed è un atto molto sofferto, che non è così automatico, perché significa stare in contatto con tutta quella sofferenza, stare in contatto con le sensazioni e anche con le persone che hanno usato la violenza. E molti non se la sentono di intraprendere questo percorso per il tipo di pubblicità che poi verrà anche fatto di tutto ciò che costituisce la propria vita e non è strettamente inerente al, al fatto che si, per cui si chiede giustizia. Noi tra poco torneremo a parlare di questo, quindi rimanga con noi, dottoressa Bruno. Ora ci lasciamo per qualche istante e torniamo anche con le parole di un presidente, anzi di un ex presidente statunitense, molto legate al tema che stiamo trattando e che purtroppo non è un problema solo in Italia. Torneremo infatti con Jimmy Carter. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. I have had a great blessing as former president because I've had an access. Ho avuto una grande fortuna come ex presidente perché ho avuto l'opportunità che pochissime altre persone al mondo hanno avuto, di incontrare moltissime persone in tutto il mondo. Mia moglie ed io abbiamo visitato più di 145 paesi e il Carter Center ha sostenuto programmi a tempo pieno in ben 80 nazioni. Il nostro impegno globale al Carter Center è quello di promuovere i diritti umani. Conoscendo il mondo come lo conosco, posso dirvi senza alcun equivoco che la violazione numero uno dei diritti umani, di cui stranamente spesso non si parla, è il maltrattamento di donne e ragazze. Questo si verifica per alcune ragioni di cui voglio parlare. Prima di tutto l'interpretazione errata degli scritti religiosi, delle sacre scritture, la Bibbia, il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, il Corano, eccetera. Questi testi sono stati interpretati erroneamente dagli uomini che ora occupano posizioni di potere nelle sinagoghe, nelle chiese e nelle moschee. E si interpretano queste regole per far sì che le donne siano regolarmente relegate in una posizione secondaria rispetto all'uomo agli occhi di Dio. Un altro problema che abbiamo nel mondo legato alle donne è la schiavitù. Oggigiorno si chiama traffico umano. Nel XVIII e nel XIX secolo in Africa c'erano circa 12 milioni e mezzo di persone vendute come schiave nel Nuovo Mondo. Oggi ci sono 30 milioni di persone che vivono in schiavitù. Il Dipartimento di Stato riporta che 800.000 persone sono state vendute come schiave attraverso i confini internazionali ogni anno e che l'80% di queste sono donne vendute come schiave del sesso. Questo è un altro problema molto serio e il problema di base è la prostituzione. La Svezia ha avuto un buon approccio. Circa 15-20 anni fa la Svezia ha deciso di cambiare la legge e le donne non sono più perseguite perché si trovano in stato di schiavitù sessuale. Si perseguono invece il tenutario del bordello, i protettori e i clienti. La prostituzione è calata. Negli Stati Uniti, per ogni uomo arrestato per transazione sessuale illegale, vengono arrestate 25 donne. Canada, Irlanda, ho già detto la Svezia, Francia e altri paesi, si stanno spostando verso il cosiddetto modello svedese. E questa è un'altra cosa che si potrebbe fare. Nell'ultimo rapporto che ho ricevuto si parlava di 26.000 aggressioni sessuali che hanno avuto luogo nell'esercito. 26.000. Soltanto 3.000, non più dell'1%, sono effettivamente perseguite. Only 3.000, much more than 1%, are actually prosecuted. E poi continua Jimmy Carter, perché gli premeva sottolineare che non è che avvengano le violenze sulle donne, le mutilazioni genitali solo in Egitto o altrove, ma negli Stati Uniti, e ha preso le due istituzioni più rispettate del paese, esercito e università, per far capire quanto poco in rapporto ai numeri che si conoscono, quanto poco vengano perseguite le violenze sessuali, cioè quell'elemento che diceva la nostra psicoterapeuta, con cui torniamo tra pochissimo, di volontà della donna di rimuovere a volte, non, e poi anche di sfiducia che giustizia si possa fare in questo ambito. E dunque, cos'è che si può fare? Qual è la cosa più importante da fare oggi, al di là dell'esaminare, dell'analizzare, del dividersi su questi temi? C'è qualcosa di pratico che si può fare con i giovani, per esempio, con le giovani, a scuola, in famiglia, per far sì che si avanzi in merito di libertà, libertà di espressione, libertà di azione, responsabilità? Sono tutte domande che vi rivolgiamo e sentiremo anche la vostra opinione tra poco all'800 24 00 24. Dottoressa, torniamo a parlare del percorso della donna che subisce una violenza sessuale. Raccontava questa ragazza da cui siamo partiti di incubi ricorrenti, dell'impossibilità di poter continuare una vita anche a distanza di anni senza terapie, per esempio farmacologiche. È quella la strada per uscirne? Cos'è che può ricomporre psicologicamente una donna che abbia avuto un'esperienza di questo tipo? Beh, le ricerche dicono che prima di tutto, anzi dicono il primo fattore di guarigione è il sostegno sociale, il sostegno della comunità e della rete sociale della donna, e questo soprattutto in queste tipologie di violenza spesso non c'è, anzi si sentono sole. Si sentono sole perché poi vengono giudicate, e spesso quello che accade nei processi è la stessa cosa che viene detto loro dalle persone che conoscono o da quelle che non conoscono, cioè? perché ti sei messa in quella situazione, come se la responsabilità degli atti di altri ricadesse esclusivamente sulla donna, cioè il fatto che avvenga o meno quello che noi chiamiamo uno stupro, e mi trovo totalmente d'accordo con ciò che ha detto Dasha Maraini, e altri ritengono qualcos'altro, cui ora io vorrei tornare su questo qualcos'altro, anche rispetto all'educazione e alla costruzione dell'identità maschile e femminile. Lo stupro, quella situazione di stupro, attiva un processo traumatico di cui spesso i giudici che si trovano a prendere in esame la situazione, non essendo preparati, e anche qui avremo bisogno di equipe di giudici specialisti in questa tipologia di reato, non essendo preparati, non leggono in alcuni comportamenti della donna una difficoltà, una sofferenza, perché questi tipi di eventi attivano una risposta traumatica, che è una risposta fisiologica anche traumatica, molto potente. Che o le ultime ricerche, degli ultimi 20 anni in campo neurobiologico hanno spiegato perfettamente, per cui tutta una serie di comportamenti contraddittori, di comportamenti in cui non si trova una certa linearità e una certa coerenza, sono collegati a tutta una serie di reazioni, di traumi che vengono stimolati dal trauma, per cui può apparire un comportamento, una ricostruzione contraddittoria che manca di elementi, ma lei dice è compatibile secondo le ricerche con la vittima avrebbe subito, e questo è già stato detto. Lei ha parlato di isolamento sociale, ecco, vorremmo ricordare che le donne sono scese in piazza in questo caso specifico, e vogliamo dare il buongiorno anche a Lea Fiorentini. Buongiorno, benvenuta. Pronto? Abbiamo adesso difficoltà su questa linea. Comunque le donne sono scese in piazza e sono state mille, una manifestazione che ha colpito, perché da tanto tempo non si vedeva una manifestazione spontanea che avesse come oggetto letto proprio non tanto una sentenza, ma la libertà di una donna di dire di no fino in fondo, anche se questa libertà secondo alcuni c'è solo fino a un certo punto, cioè non bisogna aver avuto una condotta non lineare, cioè non bisogna essere nella condizione che poi l'altro possa interpretare il tuo atteggiamento come un dire di sì. Questa cosa della malinterpretazione, dottoressa Bruno, lei che ha a che fare con diverse vittime, cioè questa leva della disponibilità che sarebbe stata malinterpretata è riportata molto spesso dalle vittime di violenza? No, sì e no, diciamo, perché poi le situazioni sono molto Quindi un caso diverse. Particolare questo? No, particolare no, però le situazioni spesso sono diverse e questo ci interroga su una cosa. Pronto? Una cosa importante, perché è ciò che ci sta di culturale dietro al pensiero che questa cosa che sei ragazzi fanno con un corpo inerme portato dentro una macchina, non ci interroghiamo se non è uno stupro che cos'è, e non ci interroghiamo su cosa rappresenta nella nostra cultura della costruzione dell'identità maschile e dell'educazione alle relazioni e alla sessualità, perché tutto questo ci dovrebbe far pensare al di là della verità giuridica. Se non è uno stupro, che cos'è? Grazie per aver sollevato questa domanda, che devo dire è stata portata alla luce anche da alcuni dei nostri ascoltatori. Tra poco leggeremo proprio i loro messaggi. Rimaniamo ora sulle strade d'Italia perché c'è l'appuntamento con il traffico, controlliamo la viabilità e torniamo insieme per discutere e per leggere le vostre opinioni al 349-238-6666. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Allora, una pornostar, per esempio, che ha una vita non lineare, come dire, può essere violentata tutti i giorni? È una delle domande che ci ponete via SMS più ricorrente. Allora, questa è declinata in maniera simile, la scrive Bruno, dalla A4. Questa sentenza determina che io possa stuprare una prostituta, una pornostar e rimanere impunito, ma come mai si chiede ancora ai ragazzi del processo da cui siamo partiti in primo grado erano stati condannati? Ci si aspettava infatti un terzo grado di giudizio e su questo si era richiesto da parte della manifestazione di cui vi parlavo prima, perché non fare un appello, visto che ci sono state in questo caso, con il massimo rispetto per ovviamente i pronunciamenti dei giudici, ma ci sono state due tribunali che si sono pronunciate non in maniera discordante, ma addirittura completamente opposta, sarebbe stato più che benefico anche per far luce su questa vicenda, capire in terzo grado come sarebbe finita. Certo che un appello lo può portare avanti anche la parte lesa, ma si trova in una situazione ora di demotivazione totale, ed emerge questo dalla lettera che ha scritto e che ha mandato ai giornali, in cui parla degli attacchi di panico che ancora ha, degli incubi, della lotta giornaliera contro la depressione, la disistima di sé, e perché io mi vesto non seguendo le mode, seguo uno stile alternativo, gotico, cose del genere, dunque sono automaticamente tacciata di essere promiscua. Per essere creduta e credibile come vittima di uno stupro non bastano, dice ancora in una lettera, nella stessa lettera di cui vi abbiamo letto uno stralcio precedentemente, referti medici, psichiatrici, 1000 testimonianze, oltre alla tua, le prove del DNA, ma conta solo il numero di persone con cui sei andata a letto prima che succedesse, o che tipo di biancheria porti. Sono molto amare queste righe, soprattutto lette da chi ha figli o figlie. Se usi i tacchi, se hai mai baciato una ragazza, se giri film o fai teatro, se non sei un tipo casa e chiesa, se insomma sei una donna non conforme non puoi essere creduta. E da queste parole noi torniamo alle nostre conclusioni con Dacia Maraini, ma vorrei invitarla, certo potremmo parlarne per ore, lei ha scritto tanti libri, a soffermarci su cosa è possibile fare, cos'è che veramente funziona nella sua esperienza per sensibilizzare, per cambiare questa cultura che ancora pervade l'Italia. Dacia Maraini, cosa sarebbe necessario? Parlarne è molto importante, ragionarci sopra, ma con calma, tranquillità, mettendo in chiaro che è un fatto culturale e poi cominciando dalle scuole più elementari, le primarie, a insegnare che l'altro si rispetta sempre, che il concetto di possesso va messo in discussione, perché amare non legittima il possesso di nessun genere, non si può possedere una persona. Per nessuna ragione, perché possedere una persona vuol dire farla schiava. E quindi il concetto di possesso, e nel caso dello stupro è un possesso simbolico, brutale, violento, e certamente non può che essere negativo. E infatti porta delle catastrofi psicologiche nella persona stuprata, prima di tutto la disistima di sé. E poi volevo dire un'altra cosa, che loro hanno detto, ho sentito l'avvocato che diceva è un'offesa verso i giudici, è un'offesa verso gli stupratori, ma allora gli altri giudici che hanno condannato, cos'erano, degli stupidi, delle persone, perché loro erano dentro, perché noi, loro possono dire che noi siamo fuori, che non conosciamo il processo, non conosciamo la situazione, ma loro la conoscevano molto bene perché l'hanno studiata, i giudici di primo grado e li avevano condannati, quindi non è una cosa soltanto di persone che non se ne intendono, che non capiscono, che non conoscono, eccetera. No, loro, persone che hanno conosciuto e sono entrati dentro, li hanno condannati. Quindi evidentemente non è una questione che si misura sul bilancino, ma si misura sul piano della cultura. Quindi, sul piano della cultura, al di là di quello che viene... Mi faccia finire, non riguarda il sesso. Io infatti sono convinta che sono moltissime donne che anche loro ragionano in questi termini, anche se sono vittime, perché è un affatto di cultura. Cioè, per esempio, pensare che l'amore non consiste nel possesso è un fatto culturale, è un fatto culturale. Le donne magari per storia sono meno abituate a pensare di possedere l'altro, ma gli uomini sempre dicono io ti amo e quindi ti posseggo. E quindi ho il diritto di ucciderti se tu te ne vai, oppure di stuprarti, di violentarti, perché come ho detto prima è un atto di umiliazione. C'è anche chi ci scrive che le donne provocano, che vestono, rischiano, si mettono in situazioni. Non so se sia un uomo o una donna, perché non si firma? Lo so, questo è l'anonimato, il piacere dell'anonimato. Ma è come dire, appunto, allora io vado in giro con un orologio Rolex, non ho la solita storia, io infatti io non ne porterei mai una cosa così, però molti vanno in giro con il Rolex, allora hanno il diritto, la gente ha il diritto, i ladri hanno il diritto di rubarlo, perché dice perché vai in giro con una cosa che costa non so quanto costa, 2000 euro, perché, oppure perché vai in giro con una macchina, allora quello lì il ladro ha diritto di rubarlo. Quindi cominciare dalle scuole, la famiglia che ruolo ha secondo lei? No, Dacia Maraini? La famiglia è importantissima, dovrebbe dare un esempio di questo rispetto verso l'altro, rispetto sempre dell'altro, della libertà dell'altro, anche in famiglia. E purtroppo non c'è. E anche una discussione serena, certo, che comprenda gli ambiti e le sfere della sessualità con i figli fin da giovani, donne, perché bisogna aiutarle a prendere consapevolezza del fatto che si può denunciare, si deve continuare a denunciare, si può dire di no, e uomini naturalmente per l'insegnamento del rispetto. Spesso però l'uomo gode di una posizione di privilegio e non ci pensa semplicemente, senza essere in malafede. Lo dice anche nel suo discorso che ci ha fatto molto riflettere. Abbiamo deciso di proporvelo questo estratto per intero. Lo continua a dire anche il nostro ex presidente, che tanto ha imparato nella sua posizione ex presidente, Jimmy Carter, e fa molto riflettere quello che dice. Ora noi ve lo proponiamo. Saluto tutti quelli che hanno reso possibile questa trasmissione: il Peter Bescapè, il grande regista alpino, come lo definisce Alessandro Milan. Con lui c'è Alessandro Longoni, che ci ha sensibilizzato, anche noi donne della redazione, su questo tema. Massimiliano Lollis, Silvi Boccaletti e Luca Cremonese. Da Irene Zerbini l'appuntamento è per domani mattina. Vi lascio con le parole di Jimmy Carter. Grazie a Dacia Maraini e grazie alla dottoressa Teresa Bruno. Another thing that's a problem with the United States is that we are the most warlike nation on earth. Un altro problema negli Stati Uniti è che noi siamo la nazione più guerrafondaia del mondo. Siamo stati in guerra con ben 25 paesi dalla Seconda Guerra Mondiale. Alcune volte abbiamo avuto soldati che combattevano a terra. Ci sono stati 4 anni, non vi dirò quali, in cui non lo siamo stati. Non abbiamo sganciato bombe, non abbiamo lanciato missili, non abbiamo sparato pallottole. Comunque, questo genere di cose, il ricorso alla violenza e la cattiva interpretazione delle sacre scritture, sono le cause fondamentali della violenza sulle donne e sulle ragazze. Ma c'è un'altra causa primaria, e non c'è bisogno che ve lo dica io, ed è che in generale gli uomini se ne fregano. È vero, l'uomo medio potrà dire: sono contro la violenza sulle donne e sulle ragazze, ma accetta in silenzio la posizione di privilegio che occupa. La discriminazione razziale è esistita legalmente per 100 anni. Durante questo periodo c'erano molti bianchi che non pensavano che la discriminazione razziale fosse giusta, ma stavano zitti, perché si godevano i privilegi di lavori migliori. Ed è la stessa cosa che succede oggi, perché all'uomo medio non importa davvero. Anche se dice «sono contro la discriminazione femminile», si gode la posizione di privilegio. Quindi, qual è la cosa più importante da fare oggi? Direi che la cosa migliore che possiamo fare oggi sia che le donne delle nazioni potenti come questa e quelle da cui venite voi, l'Europa e così via, che hanno influenza, dove c'è libertà di espressione e d'azione, devono prendersi la responsabilità di chiedere con più forza la fine della discriminazione razziale verso le donne e le ragazze in tutto il mondo. La donna media in Egitto non ha voce in capitolo sulle proprie figlie che vengono mutilate o altro. Non voglio nemmeno scendere in dettagli su questo argomento, ma spero che, finita questa conferenza, ogni donna qui presente farà comprendere al proprio marito che deve proteggere le sue figlie e le sue nipoti da queste violenze nei campus dei college e nelle forze armate, nel futuro mercato del lavoro. Need to protect your daughters and your granddaughters.